Romani. Ho sentito che faceva ola, credo fosse Francesco Uranio, e poi non ha risposto. Mettete già pensato. Io nel primissimo pomeriggio ero a casa, mi stavo un po', sai, stavo pensando sempre a quella cosa da fare, insomma un po' in paranoia ero. Me ne sono andato a Rossano, mi sono pigliato un gelato, ho comprato due cosette e sono tornato. Baracchino acceso, ma anche Pomponio c'è. Buonasera a tutti. Io tutta la mattina in giro, anche noi siamo andati un paio di posti per prendere una questione, invece se non ho preso un cucco lo fa come sempre, solito chiese per comprare una cosa e ne prendi 10 magari. Ciao Tonè. Ciao Giomari, salutoni. Capito, ma io sono riuscito, sono state 3:15, vabbè, sono arrivato alle 3 da Osciano. E come sono salito al piano, ho visto i due bar, no? Che di solito verso le 3 c'è ancora gente che mangia, no? Che finisce di mangiare. Non c'era un'anima, né nell'uno né nell'altro. O la gente ha preso d'assalto il mare oggi, boh. Anche quello, la giornata bella, specialmente questo periodo, ma adesso è periodo di mare, per cui molta gente se ne fa al mare, se ne va al mare e passa la giornata così. Avanti, avanti, l'altro. L'altro va e viene, fa gli slalom. Anche io. Ehi, Antonè. Comunque bella giornata oggi, niente da dire. Magari un po' ventilata, credo, al mare, boh, chi lo sa. Mi sarebbe piaciuto vedere, però per non fare un giro lungo, ho fatto un giro breve oggi. Hai fatto bene, hai fatto. Ma ti sei divertito un pochettino. Ho chiamato un attimo fa anche dall'altra parte, ma non c'era nessuno. E stavo andando a fare un coso, ascoltando il TMR, poi non sentivo nessuno, ho preso spento. Dopo come ho sentito a Mario Cristiano Ronaldo, ho sentito, e stava cantando Lasciatevi cantare. Ma Mario chi? Il PMR, Mario il Corpo? Mario quello del Portogallo, che cosa Mario il Corpo? Mario il Corpo non c'ha più la parete, se l'ho preso. Capito? Maggio con peso dove l'ha parata un macco. Se mi dava la parete l'avrei denunciato, quindi a peso mi ha ritornato. Ma non a me no, a me sorella l'ha dato, perché a me non si permette nemmeno a rappresentarsi. Cioè Giovanni, quando si presta la roba, in questo caso i baracchini, non tornano mai, capito? Non tornano mai, bisogna pigliarseli quasi con la forza. Perché c'ho cose da prestare così qua. Se fanno così e si dimenticano. O fanno la fitta tonta, chissà si dimenticano. Sai com'è? No. Apprezzare no, è una cosa, posso regalarla, regalo, ma apprezzare così non è un oggetto da apprezzare così, dai. Buonasera a tutti. Buonasera. Padre, aspetta che mi sfugge il nome. Mi stavo uscendo Padre Francesco, ma Padre Francesco non modula più. Padre Gianfranco. Caro figliolo, ti porto i saluti della tua ragazza, che era anche stamane via Platamona. Mamma mia, ma io mi chiedo come abbia fatto a sopportare l'inverno e i colpi di caldo che c'erano anche l'estate scorsa, le ondate di caldo, io sarei morto. Questa non muore mai, è peggio della... Che è? Ciao Giomari, buonasera. Dillo tu che è mamara, non i mori. Mazzo. Eia. Chi ha fatto senza parlare però? Ah, Antone, parla piano, parla lento e parla più piano, perché sei tutto amplificato, non capisco nulla. Ho detto schiaccia portante senza parlare per 2 minuti, un attimo. Minuti è troppo però. No, stavo ascoltando il telegiornale da te, perché a te gusto, lo fa solo quando parli tu, è strano, non mi è mai capitato. No, a me lo fa, su di voi lo fa ogni tanto, quando c'è propagazione delle radio FM, ma della radio M, certe volte sento essere che il cavo, sai, non è molto schermato, 213, c'è qualcosa di più schermato, tipo la Camilla mi pare, no? Ciao fra. Ciao Antonello, una sorta di intermodulazione si chiama, ricevitori scadenti. Ma lo fa solo quando parla Marco adesso, non ho mai sentito una cosa del genere. Mai mi ha fatto così, quant'anno non lo fa, non c'è mai attaccato, quindi il problema è lui. Adesso se Marco, vabbè, potrei anche mandargli un PMR, è quello che ascolto, quando schiaccia a parlare di lui, non è un problema, ma è una cosa strana. No, è normale. Però pare che lo sai benissimo, no? Che hanno delle frequenze che si moltiplicano, soprattutto quando c'è propagazione. Ci sono delle stazioni che sotto magari arrivano a 9,40, 9,60 di propagazione, e quindi creano questi fenomeni di intermodulazione vari. Ma lo fa solo con Marco, poi lo fa, era proprio con Gio Maria, è una cosa strana. La prima volta che l'ho sentito era quando sento a Marco. Una cosa del genere. Sembra di tornare ai tempi antichi, quando usavamo i 23 canali, che di tutto passava, di tutto di più. Saturazione del segnale, è normale. Ciao Marie, ci sei, sì. Marco, sei la persona lontana? No, stavo modulando in PMR. Ah, ho è ancora lì, infatti ho fatto un po' fatica a distinguerlo, perché era coperta da una montagna di roba, poi ho visto che c'erano le gambe, c'erano le braccia, quindi c'era. Buonasera Giafra, mi stavano chiamando là e ho voluto rispondere, mi sono assentato qua, chiedo scusa. Buonasera. Sì, ciao Gio Maria, stavamo parlando di quella lì, nonostante questa temperatura, cioè non è che sia caldo come potrebbe essere agosto, però tra notte e mattina ci sono delle escursioni di termine pazzesche e questa è di lì a quell'estate. Ognuno di noi, penso, come ha detto Marco, saremmo già morti da quel dì. È facile. Poppone, ancora? Sì, sono qui, dimmi tutto. Volevo sapere se ci sei ancora. Ci sono, non ti preoccupare. C'è anche il cane morto qui vicino a me, che intanto mi abbaia. E chi è questo cane morto? Tommy, è venuto a girarmi le balle ogni tanto. Non capito, già ho fatto anche la pizza sera. Ha dormito insieme a fianco a me, tutto storto dormito io, sono tutto allacciati, sono, figurati, come se avessi dormito in spiaggia, come ti posso dire, non nella sabbia, no, in un cantone. E facci tu pure come loro. Ma questa è una cosa allucinante, alle 8:30 vengono le crisi critiche, prende e ti sveglia. Se non ti alzi, si mette a abbaiare, hai capito? E te ne togliere l'insola. Oh, vabbè, la puttidina, non ti preoccupare, vai Marco. Qualche giorno te l'ho presto, guai. Ho detto, qualche giorno te l'ho presto come cane. E boh. È l'antifurto, la verità, perché l'antifurto, Non è entrare su a casa tua, Marco del vicinato, e ti si mette a abbaiare. I danni non entrano, però è una cosa allucinante. La mattina alle 8:30 in punto, in orario è lui, bimba Giulia Simo l'ha preso lì a me. Oh, Antonio, ma c'ho delle crisi epilettiche. Che cane? No. Mi sveglia a me, capita, alle 8:30. Non è che c'ha le crisi epilettiche, dorme insieme a me. Arrivato alle 8:30, prende e gli vengo... Mi salta così, ti devi alzare, capito? E quindi sento che le lenzuola e la coperta e quindi ti alzare per forza. Ah, ho capito. No, perché io invece ho un gatto qua, però quello soffre veramente di quelle crisi. È normale, è un gatto normale, poi improvviso smette tutto a tremare come se fosse investito una scarica elettrica. Pazzesca, non capisce più niente e poi si trema dalla paura, capito? Dopo un minuto le passa e torna un gatto normale. È una cosa così penosa, poverino, e quindi pensavo, scusa, prende anche cani questa cosa. Pensavo che anche tu fosse così, hai parlato di epilessia, quindi. No, è Pomponio che ha le crisi epilettiche. Magari, no, il fatto è che è una cosa ben strana questo cane qua, la verità, perché quando è morto il tattico del padre di Simona, io non sapevo niente. È morto il giorno prima, la notte, è cominciato a fare il lupo, sembrava un coso, e mi sono spaventato, mi è venuto questo attacco di panico a me, e gli ho detto cosa cazzo c'è questo cane? Poi la mattina verso le 10:30 è arrivata telefonata da parte della madre, cioè la madre della sorella di Simona, dice molto tuo padre, ha detto. E dopo perché il cane è venuto tutto questo cosa strano? L'altra notte, la stessa identica cosa, non era con me, era in salone. Questo è Marco in salone, ci sono quelle 16, quel tavolo fondo, grande, no? Lui ha dormito lì. Forse ha fatto qualche sogno strano, si è messo a piangere, a gridare, cioè a fare il lupo, che se ne va come vai, vai parato. Avanti. Buonasera a tutti, stavo ascoltando il cane di Alice. Mi è successo anche a un amico mio, praticamente il cane è ululava così come il lupo ed eravamo trattendo. Loro non sapevano ancora niente e hanno ricevuto la telefonata che eravamo sul trattendo. Esatto, sì, ma l'altra notte lui era fuori in salone, perché aveva dormito nelle sedie, ha detto, dormito con Giro San Marco, io lo sai anche tu, già sei venuto a casa, visto che c'era quel salone col tavolo tono grande, si è lamentato lì, non trovato a mezzanotte e mezzo attacca questo, sono spaventato, ho detto lo sa che è molto mio fratello, sono matto tutta la notte in paranoia, non ho dormito nulla, ti giuro. Ciao Marco. Buonasera signor Gianni il Caldo, compagnia Gio Maria, Antonello che con le sue storie, sono storie tipo, come si chiamava quel programma? Fenomeni paranormali incontrollabili. Ciao Gio Maria e ciao anche tutti gli altri amici che ci stavano, non so che ci sia cosa, ci vedo adesso. Ehi Marco, poi ti mando una foto. Mandami una foto, anche due. Ok. Riprendi Gio Mari che state un po' monopolizzando là. Un attimo al telefono. Avanti fra. Sì, ciao Gianni, mi hanno ascoltato. Comunque non è una novità, tutti gli animali lo fanno, anche gli uccelli. Quando si levano in volo d'improvviso, o perché c'è un'alluvione o perché sta arrivando un terremoto. Gli animali lo sentono prima, capito? È un segno dell'istinto che hanno. O ululano i cani, soprattutto si mettono a ululare quando nei paraggi qualcuno muore. Lo sentono. Spesso scappare una vita per la questione dell'uccello, perché se era sta cosa, se noi sentiamo una ragazza in calore, lui piglia e incomincia a ululare. Sì, quello magari no, sarebbe anche la cosa più bella, ma non lo fa. La voglia che lo fa, c'è tutta la sera, se si comincia a insistere, mica la prendi buona. comunque Antonio, ti sento così male, ma così male, cioè faccio fatica ad ascoltare. Proprio molto impattato. Confermi, Gianni. No, ma come? Non ci ho fatto un caso, insomma. Ciao, io attacco. Cos'è stato amplificato, insomma, questo A87? Mi sembra strano. Guarda un po' adesso, sto parlando piano. Piano, piano. Va bene così? È una 87 per questo, lo stavo buttando, l'ho sistemato e lo stavo buttando, vedete. E quindi l'ho sistemato, vabbè, sistemato e è uscito bene, sembra. Sono, aspetta, adesso sono a metà di amplificazione del microfono da tavolo, già lo sa, del saletto. Va meglio così o va meglio come? O se no, utilizzo il microfono amplificato quello palmare, se va meglio per voi. No, adesso è anche basso, però sai cosa c'è, Antonè? Che quel tipo di microfono, evidentemente, amplifica solo, ma l'amplificazione a fine se stessa non si fa niente. Ma non comprime. Quindi cosa succede? Che tu abbassi quanto vuoi, io perlomeno sento la televisione o la radio, non so se ci sia vicino e sta parlando, e la tua voce cala, però quello lì rimane più o meno costante, è tutto lì il problema. Adesso però, cioè quando era emesso, diciamo, ha abbassato un pochino, ha parlato più piano, era molto più comprensibile la voce. Aspetta un attimo, 2 secondi. Ascolta, disperazione, lascialo così. No. diagnosticato a palmare che esce bene. L'altro era a tavolo, non so cosa vuoi ti dica, se mi mette il microfono male c'è la tronca in culo, non costa nulla. Perché c'è sempre sotto fondo, la gente che parla sotto un'altra stanza, capito? Tutto lì. Finché sente la tua voce, quelli sono microfoni un po', come dire, antichi, no? E non prevedevano la soppressione del rumore e quelle cose lì. E quindi fanno questo effetto solo l'amplificazione e basta. Ah, vabbè, quello è vabbè, la cosa la vuoi fare. Vabbè, il tipo di baracchino è anche come l'ho modificato, quindi non ho messo dopo il modulatore, perché non serve proprio a niente, è solo una cazzazza, e sono fatta a disturbare i televisori, se non serve proprio un cazzo con il modulatore, perché ti dà uno spettro allucinante e disturba che cosa, ma è come attaccare il microfono. Uno stereo di... cioè uno stereo... come ti posso dire? Un CD? L'uscita del CD lo attacca direttamente al microfono, che è la stessa cosa. E quindi, basta. Il complesso del parlato risulta sempre confuso, ma quello è il modo di parlare che hai. La cosa che si capisce bene sono solo quando c'è parlare, cioè quelle si capiscono benissimo, anche i bambini lo sentono. Allora sì, qua qualcuno si capisce subito, va bene, ho capito meglio così. C'era bisogno di dirla su questa parolaccia. Me non mi capiva mi adesso, scusa. Adesso sei anche strappato, no? Confermi già. È un pezzo, è molto forte, non è compresa ma è molto amplificato. Oh, è tipo dell'apparecchio Gianni, non è colpa mia. Gianfranco Gianni, secondo controllo FM, io, forza! Prima, no? Ma magari c'è il microfono tappato, si sarà seccata quella, si chiama quell'affare che mettono davanti alle capsule. Alle capsule? Alle capsule, capsula microfonica. Ah, ho capito adesso, sì. Adesso meglio mi senti, sì, con il microfono normale. Adesso sì, adesso è la tua voce. Sempre brutta, però è la tua voce. Porca la prendi il culo, mi prepari se mi stai dando per il culo. Adesso attacco il microfono amplificato, ma è bocchi lì. Ehi, chiedi a Gianni, adesso va bene, vero? Dillo allora, è un altro peggio di te. No, sono operato di controllo, ma infatti. Ecco, io te la appoggio. E io te la salito. Grazie, caro. Andava bene, andava bene. Ehi, chiaro, su questo microfono è il 2009. L'originale. Sta pagando. E ieri c'era un po' di propagazione. Ieri? Dove sei stato l'altro giorno con Marco? Eravamo io e Marco e poi Claudio, non si poteva stare in FM. Sono entrato come Paolo Falcone, e ho chiesto a vedere se la prendeva, già ce l'hai anche tu mi sembra. No, io ieri ero in AM, ho parlato con l'Ungheria, con la Germania, con Potenza, con Milano, con Napoli, ce l'ha fatto un pezzetto. No, noi abbiamo fatto tutta la Germania, la Svizzera, con eravamo io, Claudio e Marco. A parte sul 5 che c'è quel ponte ripetitore, già lo sai, pappagallo, e quindi mi sono divertito un pochettino. Ma mi hanno detto poche di cose con lo svizzero, ha detto pasta asciutta, maccheroni, eccetera eccetera. Cioccolata di là. Ah, io era tedesco, era con la cioccolata di là, era un tedesco che ci stava prendendo per il culo, però grazie a Dio l'ha fatto fin di bene, cioè rideva anche lui, capito? Ma ci siamo divertiti fino alle 9:30 con Marco. E tu dicevi cartoffel, telefucca e Volkswagen. Quello gli aveva detto cosa, cartoffel, Claudio. Poi gli aveva detto, tua sorella, non so mi ricordo che cosa gli aveva detto. Ci siamo divertiti, non vero. Mi ha trovato una volta, era su, se mi ricordo male, era su 21 o 22. Sì, vabbè, quando non lo offendono, perché molte volte si offendono. Si dicono italiano di merda. Sì, se mi avessero offeso non ti preoccupare, c'è Simona che parla tedesco, gli avrebbe risposto immediatamente, sarebbero stati zitti, non ti preoccupare, che Simona parla tedesco, lo sai che nel sentito attuale c'è, si chiama poco da rompere le balle. Guarda, io Simona la conosco da 20 e passa anni ormai, siamo assieme, non sono mai riuscito a imparare il tedesco, mai, per niente, guarda, e lei lo parla con la sorella, con i parenti, sembra che a volte, cioè, parla metà italiano e metà tedesco, quindi sembra che stia parlando male. Sono Roiga, ti puoi far fare un po' di lezione? Oh, Gianfranco e Gianni? Sì. Potete andare in FM? Ma io? Sì. Non senti? Io ti sento. In AM non conta, in AM è stata già fatta l'operazione chirurgica e qui non ce n'era manco bisogno. Va benissimo. A dopo, riprendete voi. Sempre toccata a questo va sul corpo, il giorno che vengono se ne prendono tutti. E cosa se ne fanno? È più il tempo che perdono che altro oramai. No, da massimo tempo non è perdono, che ne ho vedi a parecchi, si fanno lì. Ciu. È un lavoratore di parassini, manca un conto. Va bene. Però mai, pensandoci bene, non c'è nessuno neanche che li ripara, perché sono tutti con schede ultra SMD, quindi quando si guasta conviene buttarlo, tanto non te lo riparerebbe nessuno un apparecchio da 60 a 70 euro. Io non ne ho manco uno da 70 euro, ma per sì, con la verità, c'ho tutti oltre 400 euro. E con la sua becca metterci? No, però sono per gli apparati. Magnum, Cobra, eccetera, eccetera. Gli apparecchi che costano una banca di soldi, il Magnum l'avevo pagato 500. Sì, vabbè, ma già lo sai che sono ampiamente sopravvalutati, spesso perché hanno una marca, però poi si va a vedere dentro, almeno la metà hanno la sua scheda dei famosi Pluto Superstar, con la cosa lì, ci mettono qualche piccolo processore in più, però rifiutata siamo sempre via. Ma sono degli apparati, perché non posso dire niente perché sono belli. Insomma, l'altra parte importante è come dicevano, quanta dinamica hanno, tutte cose così lì, però di lì il prezzo sale subito. Ci sono anche apparecchi nuovi, in multibanda, HF eccetera, costano poco, però poi va a guardarci dentro, sono peggio dei baracchini. Comunque il garage si era parecchio. Ho fatto un break ieri e mi ha risposto l'ungheria senza problemi. Sì, vabbè, quello è un'altra cosa, quella è la preparazione. Guarda, io c'ho un apparecchio con la sua antenna, è un apparecchio militare che c'è con 5 e 25 in commutazione. E in 27 in alto premi si risponde senza problemi dall'Argentina, praticamente c'è un'antenna di quelle, non è telescopica, è di quelle che si montano a setto praticamente, c'è un filo dentro, tiri il filo tipo lenza e si collega un tubo con l'altro velocemente, è un'antenna militare, capito? Sarà alta massimo 2 metri, però fa tutto, c'è il suo accordatorino a manopola, è una cosa da paura, ma soprattutto la paura non è tanto il fatto che ti sentano, ma il fatto che tu senti a loro una chiarezza unica. Ma non va in banda militare, non va anche la serpente? No, è a sintonia continua, va da 1, anzi va da 2 fino a 30 praticamente, tutto in continuo, giri le step e lui ci va. L'unica cosa è che non è che sia molto importante, non ha l'FM, è AM, SSB, CV, RT, cioè c'è la presa dietro, perché in realtà va anche in trasmissione da. Cos'è una stazione madre? No, no, da spalla, mette sulle spalle e quelli che vedi nei telefilm, soprattutto nei film quelli vecchi, poco di John Wayne, no? Che c'è il microtelefono, che parli col microtelefono, direttamente. Ma quindi non lo usi, ce l'hai così come per lettera? No, no, già lo uso, no? Già l'abbiamo provato tante volte in 27, mi hanno preso per bugiardo, perché dicono, ah, no, è impossibile che tu sei io, vabbè, so che le dica. Cioè, praticamente una stazione importante si porta con batteria, eccetera, eccetera. Sì, esatto, c'ha un grosso pacco batterie, che l'ho già sostituito, prima era un intercambio, però sono parecchio risale agli anni 70-80, e quindi le batterie anni che cambio dell'epoca ormai sono belle che andate. Ci ho dovuto mettere due batterie da 12 volt di quelle, tipo quella degli antifurti, non so se c'è presente, quelle molto piatte, e anche se hanno un ampere solo, ma un ampere e mezzo va di lusso, perché sono progettati per consumare pochissimo, capito? Un apparecchio usato tutto in alluminio, fino a due metri di profondità, ce lo puoi buttare anche sott'acqua, perché era in dotazione alle truppe, fai queste speciali, capito? Eccomi, ecco. C'è qualcosa che non va, aspetta, c'è lo squelciato qua. Mi sentite? Sì. Benissimo. Ciococcio. Gianni? Sì. FM? In FM dobbiamo andare adesso? Eia. Io C7. Canale 23 C7. Eia. Non ci sono. Non ci sto capendo niente qua. Non sto capendo niente. Guarda che siamo in M, Antonè. AM. Dove è M? Ah, diversa è adesso, è più bassa. Lo so, è Rimmer. Però è come un po' vibrata, è leggermente vibrata, dovresti alzare un po' di più. Ma via di mezzo, mi. 4, 5, 6 adesso, com'è? Senza eco però, le tarature si fanno senza eco. No, compare. Il clima è posizione, è sporco. Oh, Marco, mi allontano un attimo che ti attacco con l'apparecchio che dicevo, voglio vedere se la batteria funziona. Vi chiamo qua, eh. Ok. Ti aspettiamo, dai. Con ansia, lo vogliamo sentire. Via. Bene, allora, già, dimmi la marca, solo la marca. Diana. Ottimo. Comunque non va bene, perché abbiamo monopolizzato qua, siamo entrati come dei vandali, c'era Gio Maria, poi è sparito, a meno che non sia l'ascolto, Gio Maria. Ciao a tutti, Ah, era al telefono. No, ma così adesso. Chi è che è entrato tutto strappato? Chi è? Sono Monaco, io sono qui davanti al televisore guardando le partite. Ciao. Chi è Giulio? Giù, eri un po' strappato all'inizio, eh. Perché l'ho attaccato al microfono. Cioè, va bene. Ecco qua, adesso non dovrebbe essere, perfetto. Va bene. Vi saluto, vado a vedere le partite. Ciao Giulio, buonasera. Avanti, va. Eia, comunque già, tu non ne hai mai visti i trimmer degli apparati SMD? Sono micro, sono, quanto sarà largo? 2 mm, massimo 3 mm. Ma ti ne esci di loci, poi la regolazione è micrometrica, cioè basta spostare di mezzo millimetro e già cambia. Uff, mamma mia, meno male che adesso ho risolto, dai. No, io non so se tu li capi apparati, non ne apro mai. Lascio sempre ai tecnici a fare i lavori. Una volta solo che mi ha messo il convinto con quel cobra al basso. Non le volevo nemmeno fare con paura. Perché tu magari spari toccare lo viene a apparire. Sì, già, però quando parlavo con quelli fuori, no, mi dicevano low modulation in FM, era bassa, ho dovuto farlo. ho dovuto fumare, ma non è un problema, mi è una fesseria, ok. Un attimo che mamma mi chiama. Eccomi, eccomi. Ui, che casino, guarda. Mamma mi chiama sempre nei momenti più delicati. Eia. Quindi Antonello, sei rimasto? Antonello. Sì, strana è la modulazione. Gira gira era meglio prima, amplificata. C'è tutta strana, tutta. Già, come la definiresti, boh? Stavo tre toppa, perché ho sento passa passa. E cuppa, Antonello, lascialo come era prima, cioè stava, era molto meglio. Non sto usando quello lì, sto usando il Saturn-Lecco adesso. Abbiamo fatto il CVC e quindi è così. Adesso sto facendo un pochettino, l'ho acceso per scaldare un po', poi dopo lo apro e li struccio con l'aggeggio, vedrà che funziona bene. Ma perché saranno così bassi? Perché ci sono i prime che sono pieni di umidità, tutto lì. Io non li ho cambiati ancora, devo cambiarli, solo che non ho avuto pazienza di farlo e quindi. Hai capito? Lo sai che la roba mia rimane sempre come il calzolaio, no? Ce l'hai presente. Il calzolaio cosa fa? Che la roba sua non se la mette mai a posto, esce con le scarpe tutte spacciate, invece con gli altri del sistema. Guarda, io sono figlio di calzolaio e ti assicuro che mio padre ha le scarpe ci teneva, sia le sue che quelle della famiglia. La domenica le lucidava tutte completamente, voleva le scarpe di tutti per lucidarle. Le teneva perfettamente le scarpe, ma sono tutti i calzolai che sono così. Gianni, no, così. Allora passo con la roba mia. Aspetta che sono con l'altro palazzo, 2 minuti. Te la lancio subito. Dicevo, Gianni, adesso puoi tirare al cane. Lascia perdere. E facciamo un altro momento questo discorso. No, no, il cane mi assicuro che non ci sia. Eia. Bella, bella. Comunque, si può dire la cifra? Per curiosità. Sto portando là. Sto portando al telefono, ascoltami. Ora tutto sto telefono. No, va bene, 380. Aspetta. Aspetta. E come mai tutto spento tutto qua? Ah, non mi dire che si è spento. Ma fa Napoli. Anziché toccare il volume, ho toccato l'accensione, mi si sta accendendo adesso. Mamma mia, che palle, guarda. Bene, bene. Chi c'è rimasto qua? Vediamo se ha attaccato l'altro apparato Gianfianco. Ah, già, ho sentito che modulavi sul 36. Ma chi erano? Da dove erano quelli? Quando? Ieri? O ieri o l'altro ieri, non mi ricordo. Da dove erano quello lì? Da dove era? Allora, ho fatto Ungheria, Germania, Pavia, no, Potenza, poi Napoli, Milano, e insomma, l'ho fatto poi tutta la Sicilia. Ah, quindi non solo fuori, non solo. Perché ho notato che la propagazione certe volte più presto, cioè più presto, a metà serata, arriva l'Italia. Con l'andare della serata, come si fa? Già hai capito, quando si fa più tardi arrivano più segnali da fuori. A volte la propagazione si allunga. Più o meno non è sempre. E beh, il telefono è tutto morto, aspetta, non mi compaiono le icone qua, come mai? Tra baracchini e telefono, che ne voglia buttarci tutto. Buttalo via, contro i vecchi adesso. Sicuro. Adesso è Antonello mio. Ecco, è comparso tutto, vediamo cosa mi ha mandato un attimino, sono arretrato con i messaggi. Ui, c'è il mio telefono anche da regalare qua, no, non interessa niente, non aspetta più i soldi per il telefono, non saranno, ne ho 1, 2, 3, 4 mio telefoni, aspetta, figurati, quindi no. lei l'ha chiesto a me, mi. Tu chi sei, che vuoi? Tanto lei lo vuoi, lei c'è te, mi ha detto. Ah, ho capito, allora mi sono sbagliato io. Allora, quindi, se non vuoi prenditelo tu, quale problema? Io non mi serve, ce l'ho il telefono, per Dio, che me ne servono altri. Sempre quello che lo uso. Marco, ma tu i funghi da dove li compri? Aspetta, ho ascolto il messaggio, sto al baracchino, dai, un attimino. Ecco, adesso mi senti bene, no? Adesso sono con la 87. Ecco, devo cambiare i trim per forza di quelle cose, è stato un ecco, c'è nulla da fare, li ho puliti l'altra volta, ho lasciato perdere l'apparato, l'ho messo da una parte e sono andata come prima, quindi l'unico metodo è cambiare i trim, non deve stare così. Adesso mi piglio faccio la fotografia, poi devo prendere la sigla e me li ordino e me li cambio. Tutti e tre. Anzi, uno devo anche staccare, perché quello della LC non c'è nessun bisogno, io lascio solo quello della MC. Lo so che ce l'ha fusato. Gli ho dato anche l'apparato, devo ritirarlo. Dopo il 30 di cose, di giugno ritiro l'apparato nuovo. E che apparato ordinato? Un apparato di quelli marcato c'è. Bello, col display, grande, quanto il 2009. Tipo il 2009? No, non è tipo il 2009, c'è il display che cambia colore, poi c'è un sacco di pulsanti, è bello, veramente bello. Assomiglia, ora che posso dire, al presidente, come si chiama, quello che c'è la display digitale. Linko, tipo Linko, da. Il marchio Ceccio. Il Cobra, il Midland. Tutti i marchi Ceccio. Va bene. Va bene, anche se non lo userò mai con l'apparecchio lì, me lo metto da parte. No, ne ho sei apparecchi, di cosa cazzo me ne vuoi sapere? Non li uso mica tutti e sei, no? Sì, vabbè. È la mania che ci abbiamo. Già lo so, a parte quei pazzati lì, il buon Frank, l'aglio 4. Io ho un'aglio più brutta di questa roba. Io sono un parecchio buono anche tu. No, io lo uso, io, così, buon Frank. Quando vado a fare gli impianti d'antenna, non lo fa la voce col cliente, arrivate a macco. Mi lascio uno giù, l'altro me lo porto su. Quando si vede la TV, prendo la scala, scendo tutto e me ne sto andando, in caso di là e se la piglia in culo. Sembra tutto tuo, sempre. Eh sì, quando ce n'è sì. Non faccio più lavoro, più che altro al centro storico, perché ormai sono arrivato a metà e quando sali sopra le tegole sarde, non sai se c'è il cannetto sotto o se c'è qualche lita di cosa di... che sta messo a palletto di qualcuno quando sta facendo il ciucucciù. Davvero? Che facevano anche in paglia i tempi prima, te lo ricordo? Tutto per quello. C'è stato più, sai, con le tette normali, con quelle tegole larghe, quelle sì, quelle che ci sono moderne adesso, se no niente da fare, se l'altro anche a Napoli. Oh, mi ha scelto un attimino per poter alcun piatto. Fai con comodo. no, stavo mi, stavo chiamando per un po' perché purtroppo c'è gente e devo per forza mollare tutto. Scusate se non sono entrato a visarvi da prima, dai. Da un tempo che ormai siamo più o meno tutti allontanati. Capito, per una cosa o per l'altra. Ok, Giovanni, dai, ci sentiamo allora, buona serata, alle prossime. Ok, ciao, ci sentiamo, buon proseguimento di serata. Ok, ciao, scariche? Io. Oh, io pomponi, io sei sempre a scarica, ma lampati tutto io. Sì, sì, d'accordo. D'accordo? D'accordo, d'accordo. Sono andati via tutti, no? Vabbè. D'altronde è tardi. Ma veramente sono uscito io, sono ancora rusti. Poi non lo so, sono appena rientrato. Quale Eurospin? Quello attaccato a casa. Ehi, già è comodo quello, per te è comodo. Io, a me, guarda, io ci sono andato varie volte, molte volte, ma io episodi di maleducazione non ne ho mai visto, non me ne hanno mai fatti a me. Mai per i miei brioli, ma non ha perso. Non c'era uno che non si lamentava, adesso si sono messi a posto, capito? Eia. Va bene, poi a me non interessa anche essere lì, sai, bene ma essere tutto salutato, incensato, a me interessa pagare, boh, e andarmene. Mi non fotti nulla anche se non mi sai, salutano tutti come quello in Via Londra, non mi non fotti nulla a me di questo aspetto. Vai Via Londra, vai a Verona. A me mi salutano, addirittura. Se per dire non c'ho soldi per il momento, ma la roba me la lo stesso. Poi passo la mattina e pago. Eia. Bene Antone, si sono fatte le 8, ho chiuso tutti, ho chiuso bene gli apparecchi, ho mangiato. Poi sono in mutande, sono in maniche le mutande. Era molto accaldato. Stavi facendo il maniaco. Vieni qua. Ho trovato una sedia bella, mi permette soprattutto tuo, poco fa. Nuova, di quella della spiaggia. Mi sa che te la porto, sali su, ti do l'ombrellone, quello che ho io. Quell'ombrellone grande, quello che si usa per il bar, ti metti sopra con la bibita bella fresca, con eccetera eccetera, e il barbecue e mangi sopra. Sopra dove però? In quale terrazzo? Questo è di proprietà di altre persone. Potrei andare in quello di nonno, ecco. Ma a parte in estate albero o no, c'è un forno, ti devi fare il bagno, tutti dimmi. È abbastanza largo il tetto dove c'è tu. Ma c'hai la chiave, basta salire sopra, ti dai nulla, chiuderti. E devi vederti. sono qua dritto, faccio le 8 e mezzo, prendi tutto e te ne scendi piano piano. Ehi, aspetta un attimo. Vorrei abbassare un attimino. Chi è? Chi è? Antonello Baracuda. Sì, Santiago 5, non può essere, dove sei? Antonello, se sei tu. Il Vesese che sei arrivi Santiago 5. A me è sembrato Antonello. Ui, non è Antonello, dimmi. Ah, questo deve essere mezzo sordo. Ehi, cosa c'è adesso? Uia. Questo è Luca del Monte. Ah, ti la lei asa in culo lì. Se vuoi rispondere rispondi, se no te la prendi in culo e parli con muro. Come sei colorito, Antonè? Sei mezzo ora, mi dice brutto buco, e tu dimmi cosa c'è e mi dice sempre le stesse cose. Deve essere in qualche campagna, senz'altro festeggiando, beato lui, mangiando bistecche, a malzare l'Ivalia. Allora bene, non risponde, sta mangiando, quel cane morto, quel porco fottuto. Antonè, esco di segnale, che c'è il coso al minimo qua, tutto al minimo, eh. E ho voglia che esci di segnale, adesso vai a tirare proprio con Saturnecco, di nuovo. Devo proprio togliere quel trimmer, non c'è niente da fare. Metto l'ultimo dell'RMC, poi cambio l'altro dell'RMC e è a posto, perché in banda laterale FM c'è benissimo, ed è un bisogno, è solo questione di quei due trimmer. Sono sedati, a far culo, mi ricambio e uso a giovinizio, è a posto. Scappo imbecille io perché gli ho passato il cerecipo, ho preso lo spento e l'ho lasciato da una parte. Oh, vabbè, da, niente che non si possa rimediare, no, qui non si possa rimediare, no? No, la parata non c'ha niente, già l'hai vista, nel FM c'è benissimo, anche in banda laterale c'è bene. E solo la M, quello dei trimmer, l'MC e l'LC da togliere, cioè da cambiare. L'LC l'ho tolgo del tutto perché non me ne fotte nulla, l'MC glielo cambio e risolto il problema. Ehi Antone, ui, quanto sono stanco. Vabbè, comunque sono contento di aver risolto per quegli apparati, per l'FM di quegli apparati, almeno ho risolto quello. Ma no, perché mi dicevano, o a Sassari o da fuori, radio un po' bassa, in FM, radio bassa. Perché di fabbrica lo sai che è tutto chiuso, no? Non si sa perché lo mettono a zero, boh, la deviazione FM. Adesso vediamo quello che ritirerò io, dopo il 30 giugno, perché mi ha telefonato l'altro giorno quella del comune, e in pratica devo fare la... come si chiama? Del nome adesso mi sfugge il colloquio. Luca del Monte, ci sei? Ma anche la propagazione rispetto a voi è un po' scesa, sento rumorini e boh, ma non sento gente chiamare. Ehi, non ti ricordi quello dell'altro giorno, la propagazione fino alle 9:30 siamo rimasti assieme, spagnoli di tutto, c'era quello che asciutta, maccheroni. Però ci siamo divertiti, c'è un grido, no? Ci siamo divertiti, sì, educatamente è educato anche lui, si poteva tipo si fa la stadio, ma nessuno si è offeso, grazie a Dio. E io spaghetti Italia, spaghetti, mandolino, Berlusconi, c'è quello, aia, Berlusconi. Io me lo ricordo già. Dopo è poi entrato Antonello, di Ursilandia. Caspita, era quel giorno brutto di... brutto tempo, eppure propagazione favolosa. Va bene. C'è nessun altro sul canale, no? Tutti chiuso. E purtroppo io, eravate tu, Gianfranco mi pare, ho dovuto chiudere perché devo mangiare, devo chiudere gli apparati, dai. così si mettono in scatola, capito? Io mi sia posto per metterli in scatola e dimenticarmeli. Sì, c'è da fare a fare. Che cosa che devo rimettere in scatola? Usali, se li hai comprati usali. Quello che se te li lasci in scatola succede come mi sento me come ho io. Cioè, no, non ho capito, l'effetto è cosa c'entra? Se lasci se li, l'apparecchio, lo provi un giorno, poi non lo provi più, succede come è stato me come ho io, che quando vai a accendere dopo un anno, due anni che ti ricordi di usarlo, e cominciano altri problemi di potenziometri. E poi dice, lo sai che non è come l'apparato di quel modello vecchio che ci puoi giocare, lui ti attacca il tram e ti attacchi. No, ma io già li accendo, ogni tanto li accendo, che magari ogni due, tre settimane, magari un mese, però li accendo, faccio il tour, non voglio che si rovinino, tanto a vendere non si vendono, pazienza. Vabbè, Leoncino, l'hai più visto, Antonè? L'ho visto l'altro giorno, era con me. Adesso si rotterà la gamba, si rotterà, penso che sia la prossima settimana al ginocchio. E infatti gli penso il portatile, quello che mi hai dato tu, così almeno se lo porta al ghetto, almeno ascolta, se c'è qualcuno parla, se no parla col muro, gli ho detto. E tra l'altro tipo di PMR, capo non vedi più l'equipe, almeno il 27, qualcuno già entrerà. Alghero, da quando il 10 un po' si è stato un po' abbandonato, non entra più Valerio, capito? Non entra più qua, almeno sono il T3, una volta sola l'ho sentito. Sì, vabbè, lo sai che loro parlavano sul 15, non è che noi andiamo tutti i giorni sul 15, no? Quindi sono sicuro che qualcuno ci sarà di Alghero che parlerà, non penso che sia la frequenza morta, no? A meno che fanno compagnia di ospedali, l'unico problema è che c'è l'antenna che è lunga un metro, telescopica. Il discorso è quello lì. No, ma cosa si porta al portatile con questo antennone? Si piglia una radiolina FM e si ascolta la musica e fa prima. Cosa baracchino? A far ridere i polli. Sì, vabbè, me lo fa, parla un pochettino, cosa vuoi dire io? Questa non si porta, guarda che io c'avevo la magnetica, quando ho ricoverato la cosa in dermatologia, ti parlo quando era di fronte ai giardinetti, c'avevo la magnetica, non quella piccola, quella grande, il BV131, c'avevo, non era solo il 3009, era l'altro, l'ultimo dei tre, io da che tu. E tutto va via, riparavo la roba agli infermieri, figurati, non mi ha detto niente mai nessuno a me, l'unica cosa che si mi ha detto l'ultimo giorno che dovevo andarmene perché dovevo essere dimesso, mi ha detto roba la direttrice, dove ho ricoverato io, perché quando parlavo portante, familiare, che andavo in tutti i computer. Ma perché tu c'avevi pure il lineare? E allora, chi era Mario Master? C'aveva anche il VHF, sempre questo. Il KT330. Io in ospedale non voglio niente. Non voglio niente. Al massimo una radiolina FM, ma non credo che sarò dell'umore giusto per ascoltare niente. E vabbè, tu non sei stato mica 3 mesi come sono stato io. E me l'ha fatto tre mesi in più me la sono fatta, a un certo punto mi sono fatto portare la roba, non ce la facevo più, stavo impazzendo. Però non ci avevamo di tutto, ci pigliavamo la pizza, ci avevamo il bidone del vino da 20 litri, quindi andavamo lì ogni tanto a pranzo, bocciavamo del vino, pranzavamo tranquillamente col vino. 3 mesi, e 3 mesi per cosa? 3 mesi per in dermatologia me l'ha fatto, caro mio, non è così bello, ma specialmente lo vedo io al secondo piano lì alle cliniche che c'erano di fronte ai giardinetti, hai capito? Me ne sono fatto 3 mesi, di tutto me l'ha fatto, di tutto di più, grazie a Dio non sono commosso. perché mi hanno dato dei farmaci, mettevo la crema, sembrava cemento al mazzo. Un giorno ti facevo l'istituto di primo o secondo grado, poi di nuovo, dopo due giorni ti mettevano la crema base per tutti gli ustioni, poi dovevo andare, me la facevo la moto, parcheggiata all'interno dell'ospedale, andavo a casa perché non funzionavano i servizi igienici, solamente il CIS e basta. La maschera per farti vedere la luce non funzionava per niente, allora dovevo salire a casa di mamma, tutto bendato, dalla testa ai piedi, hai capito? E poi dovevo rientrare di domani. Cazzo, è una mummia! Non è più una mummia. Esatto. Non sai cosa usava mamma come shampoo? Lo shampoo normale non esisteva, se no cazzo, lo consumavo tutto. Usava quello shampoo per sgrassare, tipo il tipo sgrassatore, allora era proprio lo shampoo per togliere sudori, perché a lui ci metteva l'olio d'oliva, e non l'olio vero e proprio, cioè, ma l'olio d'oliva era, ma costava allora un barattolo da un chilo e mezzo costava intorno ai 200 euro, non 200, 200 mila lire costava, tu figurati, ma era verde, senti, passare con l'olio d'oliva, vero e proprio, con quello sai come ti toglieva il catrame, se tu dovevi portare, ti passavi l'olio d'oliva, ti toglieva il catrame dai piedi. Verde, cos'è? Grasso graffitato, boh. No, era l'oliva gelatinoso, in pratica. È brutto essere in ospedale. Mio zio per la gamba si è rimasto, mi pare, sei mesi perché ha avuto la coccite alla gamba da ragazzo, mi pare avesse 16 anni o 18. Una specie di, come si chiama, tubercolosi all'osso praticamente, ha fatto tutto a buchini, un macello, infatti adesso è praticamente invalido, c'è una gamba, non si può piegare, non si può mettere le scarpe, le calze, è invalido, eppure pur essendo invalido non ha voluto nessuna, non gliene frega niente di avere la pensione, capito, non gliene frega niente, tanto già lo campa la sorella. Sì, quando vuole la sorella, quello gli si piglia la pensione, se non muore di fame ce lo mettono in coso, vabbè ormai giù a San Pietro non esiste più, perché prima c'era una specie di come si dice, lo gestivano le suore, hai capito, che era povero, si mettevano lì, li tiravano da mangiare, eccetera eccetera. In questa famiglia tutti quanti sono ma compreso, vabbè, insomma, questa famiglia guido solo io e mia zia, mamma non guida più per le gambe e non solo, mio zio non guida più, è meglio che non guidi anche. Quella di Olmedo non guida, c'è la macchina per fare 100 metri e boh, ha paura di uscire fuori Sassari, fuori dal paese, quindi è come che non guidasse. Gli unici superstiti sono io e mia zia, te l'ho detto. Mamma mia, mamma li turchi. Mamma li turchi davvero. Oh, iaia. Guarda, tutte le gambe mi fanno male, cazzo. Quello è dalle macchine, che c'ho. Mi vedo si chiama artrite. In pratica, adesso non ho questa età qui, a 70 anni le mani diventeranno, le dita si piegheranno, capito? Si rimangono bloccate. Questa cosa che ho io. Le gambe la stessa identica cosa, quindi rimango invalido perenne a 70 anni, con questa tutta che ho. Ma perché? Che cos'hai tu? Queste macchie che ho io della psoriasi ti portano alla crisi, non lo sapevi quello. E quindi piano piano è una malattia degenerativa come la chiami tu, hai capito? Piano piano finché tu una volta arrivata con l'età incominci a... C'è presente quello quando tu sei in moto e c'è freddo, quando riesci a pigliare di male, è uguale. a Tino Musco, il barrato. Ah, non lo sapevi Marco che più? Vabbè, adesso lo sai, dai. No, Antonè, non lo sapevo, ciao Tino, non lo sapevano che la psoriasi dava poi reumatismo o artrite reumatoide, non lo so come si chiama. Esatto, sì, quella. A me quello fino a poco fa era Tino, insieme agli altri, stavano facendo un pranzo la cena, perché ho visto le foto su Facebook stasera, stavano mangiando come sette cani, stavano mangiando, perché non so che cosa hanno fatto, hanno aperto un negozio di cose, di mettere ragazze negli sportelli, tutte nude, cosa ne so? Anche tu lo sai, tutte nude, non c'è neanche una vestita. Barrando. Buonasera. Maria, che cosa vuoi fare? Meglio lavorare. Scusa, dai, se no. Ciao, ti buonasera, bravo, scucito. E allora, stavo facendo una colazione adesso, adesso mi siedo 5 minuti e faccio una baracchina, ho finito a voi. Cosa si dice? Sì, nulla, cosa vuoi si dice? Oh, c'è strano, mio, non c'è troppa cazzo, un altro giorno era la cosa allucinata, non avevo mai sentito se avesse parlato l'altro giorno. Tutti 9:20 arrivavano. Freschi, di tutto vera, per carità. Avanti Marco. Quella sera ci siamo divertiti. Era quel giorno di pioggia, mi pochi giorni fa, 3-4 giorni fa, proprio un tempaccio, c'era una propagazione feroce. Prima l'Italia e poi l'Europa si è allungata la propagazione. Sì. No, io avevo voce su oggi, sono un po' di tempo, che sono un po' assente per via lavoro e quant'altro. Attenzione sul PC e così via. Quindi il baracchino è un po' conservato, anche l'altro grande, per carità, è sempre spento. Se non ti crea problemi, specialmente i potenziumi, temi, ce l'ho fatto la catata io, ho preso questo apparecchio qua, l'avevo pulito, poi l'ho lasciato perdere, gli ho detto ma adesso lo posso lasciare spento per un po' di tempo, sono andato a accendere stasera, non riusciva più il radio, esce solamente in FM, in banda laterale, in M non ho, i trim non conducono più, e quindi adesso vaffanculo, mi cambio tutti e lo accendo tutti i giorni, a posto di questo qua. No, vabbè, anche io, Antonello, intanto lo accendo, sì, ma magari non gli faccio buon uso perché non sto lì, qualche passaggino così, però lo accendo, diciamo, quasi tutti i giorni. Sì, l'ho acceso, la verità, perché i potenziometri, i primi che ci tengono sono quelli. Questo difetto c'era anche nel 2009, figurati tu, che c'ha più di 20 anni. Il primo 2009 l'ho avuto, quando abitavo in via di Sedo, figurati tu, me lo porto da lì, e sono qua, sono più di 20 anni. Devo cambiare il potenziometro, solo che il potenziometro dovevo cambiarglielo, l'ho passato alla 87, perché a questo qua, e quindi sono rimasto senza. Adesso vedremo un po' di, se riesco a procurarne qualche altro pezzo e poi vediamo, così me lo cambio del tutto e sono tranquillo. Va bene, sono entrato a salutarvi, dai, che devo fare delle cose al PC, che devo controllare delle cose per lavoro, e poi nel caso se coincide riprendo, ti mollo un attimino, Sì, d'accordo, non c'è problema già, ricordati se fate il resimi, scade il 30 giugno. Non ho capito, Antonio, scusami, infatti il 30 giugno? Vi fate il resimi di cose, il controllo sociale, fatelo, la domanda, alcune, scade il 30 giugno, scade. Ma non lo so, invece me lo danno, io sono in ordine ora, dai. Vabbè, se sei disoccupato il discorso è diverso, ma saremo su più di 9.000 euro le foglie uise, se lo danno. No, sono assicurato e quindi non penso che lo dia. Se sei assicurato, basta. Se non sei assicurato, per il tuo uccello. Non devi superare 9.000 euro e vabbè. E come sei tu che hai figli, ti avevo dato intorno ai 500 euro o qualche cosa. Adesso se dovessero fare questo reddito di cittadinanza, sono 780 euro al mese, insomma. Quindi, sembra puzzo. Finché non cade il governo. Vabbè, grazie l'informazione. Va bene, a dopo. Eia, d'accordo. Eia, ciao Tino. Poi è Tolello. Caro Antonello, beh, oggi almeno un po' sono uscito. Poi vabbè, sento gente al baracchino. Va bene, Antonello, ho bisogno di stendermi perché sono un po' stanco un po'. Poi, vabbè, domani si vedrà, domani non so cosa accidenti dobbiamo fare con questa storia di Milano. Ne ho già le scatole piene e non è nemmeno iniziata tutta la prassi, pensa. Sì, vabbè, guarda, Giuseppe ha fatto la visita ieri mattina, Alghero. È stato tutto il giorno buttato lì. È iniziato alle 7, figurati tu, adesso deve lavorare l'esito per fargli, quando fargli l'operazione. Poi il problema è come fa a salire a casa sua, perché lui c'ha, l'ascensore non funziona, c'ha tre piani da fare con le stampelle, lo voglio vedere. Ma chi? Lucino. Ah, non capisco. Ascolta, ma aveva poi fatto pace con Nico Leoncino? Sì, tutto a posto, stando tutti i giorni, sto andando. Hai capito? Oggi non penso sia andato perché ieri ho fatto la visita medica e è tornato verso le 7:30 di sera. Penso che vada domani. Penso di trovarlo ogni mattina. Comunque già è tranquillo adesso col fratello. Io oggi per guardare dentro gli apparati, siccome Lucia non ce n'è mai abbastanza, i trimmer sono piccoli, ho usato una torcia da fronte, no? Presa al Decathlon, pare solo 3,99. C'è un unico LED abbastanza luminoso, certo non fortissimo, non so se sia 30 lumen, 50 lumen, questo non lo so. Però comoda, capito? Te la metti in testa, punta esattamente dove guardi e puoi fare questi piccoli lavoretti con abbastanza luce, dai. Quella della CD c'è con la lente, le lenti che ho io, c'è anche la lampadina a LED addirittura, quindi c'è il frontale. La lampadina, ti metti la lente che ti serve per ingrandire e fai lavori bene. Però quelle dei cinesi non mi piacciono perché hanno troppi LED, troppo ingombranti, troppo. Questa è piccolina, rivestita in gomma, credo sia impermeabile, credo. Un bel acquisto, per quello che costa va più che bene. Quelle che avevo io erano vecchie di una volta, pesanti, ci dovevi mettere un bel di batterie, dai. Sì, vabbè, ma comunque la lente ci vuole per forza, se no ci ritesta. Adesso puoi tranquillamente lavorare con la senza lente, ma dopo ti voglio vedere. Capito? Io senza lente non riesco più a lavorare, prima facevo lo solo due senza lente, senza nulla, tranquillamente, anche con i micro componenti. Ci vedevo benissimo. Adesso ormai i tempi sono cambiati e hai capito, il discorso è quello. È come lavorare in un'officeria, per dire, trattando oro, che deve avere, cioè lavori con le cose micro, è un lavoro molto molto impegnativo. L'altro non avere mai le mani che ti trema o nulla, deve avere una vista allucinante. Perché deve lavorare senza lente, senza nulla, dopodiché ho visto come lavora, mamma mia, io non ce l'ho riuscito a lavorare, cioè a fare i gioielli d'oro così, la verità. E anche gli orologiai, Antonelli, devono avere una vista, soprattutto se l'orologio è meccanico, ha delle micro rotelle, micro ingranaggi, un casino e me. Poi vabbè, c'hanno delle lenti particolari, però è un lavoro di precisione, se non hai pazienza ti saltano i nervi. Sì, deve avere la mano calma, deve avere. Non devi essere agitato, quando usi la pinzetta devi infilarci il coso lì, piano piano, con calma, non so, devi lavorare, è un lavoro purtroppo di precisione, capito? E di pazienza soprattutto. Ehi. Beh, Antone, io per me chiuderei, da, sono un po' stanco, te l'ho detto. Mi guardo un po' di TV e poi ci accentiremo. A breve no, perché siamo lì per andare. Vediamo cosa ne esce. Ok? Dai, sentiamo in altre occasioni, magari fra un po' di tempo, chi lo sa. Dipende dai tempi. Ok, ciao Antonio, saluta Simona e ci sentiamo le prossime, dai. Sì, ok, ciao Marco, sentiamo. Comunque dici buon tutto, ma quando sei da sola basta chiamare, intanto se vuoi, se hai bisogno di parlare per distrarti un pochettino, già c'è sempre il telefono vicino, non ti preoccupare, che ti rispondo. Sì, da Milano. Mi porto l'apparecchio, faccio mettere l'antennone, un linearetto, in propagazione ci sentiamo, che tanto adesso è estate. Ti immagini? Sì, in 4-5 metri ti fai sedere l'antennino, in 4-5 metri arrivi sì, direttamente in idea, sei tranquillo. Beh, sì, lì sì, solo che poi che faccio uscendo dall'ospedale e mettendomi le manette? Non è detto, non è successo da nessuno ancora. In Sardegna perlomeno andare in 45 metri e mettergli le manette. Ma uno di sì, di fuori sì. A uno l'ha fatto come? Cavoli enormi, c'era anche l'articolo sul giornale. Succede, fidati che succede. Meglio non pensarci. Ciao Luca, se stai ascoltando. Ci sentiamo, dai, ciao a tutti. Ciao Marco, ciao, ci sentiamo, buona cena, buon tutto allora. Alle prossime.